Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag and drop it, zip, unzip, unzip, unzip, unzip, unzip, unzip. Salve, benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, il programma animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità e approfondisce i temi culturali, tenendo lo sguardo aperto a tutti gli esseri viventi, animali, umani e no. È la puntata numero 576 e la dedichiamo alla memoria di Elisabetta Barbieri e Federico Tonin, morti l'8 febbraio scorso in un incidente stradale mentre trasportavano 50 cani e 10 gatti dalla Puglia alla Lombardia. Erano staffettisti, svolgevano cioè un ruolo essenziale, da volontari, nelle procedure di adozione di cani e gatti soli o abbandonati. Oggi parleremo delle origini della pandemia, di lupi in movimento e lupi da salvare, di caccia, di balene, e di un libro dedicato al misterioso e magico mondo dei felini. Da oltre un anno stiamo vivendo la pandemia da coronavirus, con il suo impressionante bilancio di contagiati e di morti, rispettivamente 106 e 2,3 milioni attualmente nel mondo. Nei giorni scorsi l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha inviato in Cina e in particolare nella città di Wuhan un team di esperti che ha compiuto una prima missione di studio alla ricerca delle origini del virus. I tecnici, dopo i canonici 14 giorni di rigida quarantena, hanno analizzato campioni di sangue dei primi ammalati, ricostruito la dinamica della diffusione del virus nel dicembre 2019, visitato i laboratori della città. Non sono in realtà arrivati a conclusioni definitive, ma l'ipotesi nettamente prevalente resta quella iniziale, ossia la zoonosi, il passaggio del virus dagli animali selvatici agli umani. Il percorso è ancora incerto, forse il virus è passato dai pipistrelli all'uomo tramite il pangolino, ma non ci sono prove certe. Le altre ipotesi vagliate, la trasmissione diretta da pipistrello a umano senza passaggi intermedi, l'introduzione del virus nel mercato di Wuhan attraverso la catena del freddo, cioè prodotti surgelati, la fuga accidentale del virus da un laboratorio, sono tutte considerate molto meno probabili. L'ultima, in particolare l'incidente di laboratorio, è definita altamente improbabile. Le nostre conclusioni, ha detto il portavoce della missione sanitaria Peter Ben Embarek, suggeriscono che l'ipotesi dell'animale intermedio sia la più probabile e quella che richiede quindi ulteriori studi e ricerche specifiche e mirate. Insomma, manca ancora la prova decisiva, ma sembra confermato che all'origine di questo, come dei precedenti coronavirus diventati epidemie, ci sia una relazione troppo stretta fra animali selvatici e comunità umane. È un tema del quale si parla troppo poco e che andrebbe invece sviluppato per attuare serie politiche di prevenzione, che potrebbero condurre, e questo è il punto che rende difficile affrontare questo argomento, a consigliare una radicale revisione dell'attuale modello di sviluppo. L'invasione degli habitat selvatici, quindi la deforestazione, l'ampliamento dei terreni agricoli e dei pascoli a danno delle foreste sono la causa effettiva del disastro in corso. Per cambiare rotta servirebbe quindi una nuova idea di sviluppo, un passaggio al momento escluso dall'agenda politica, ma incombente su tutti noi e in prospettiva sulle prossime generazioni. Lei non parla mai, lei non dice mai niente. Ha bisogno d'affetto e pensa che il mondo mondo non sia solo questo. Non c'è niente di meglio che stare ferma dentro uno specchio. Com'è giusto che sia quando la sua testa va giù. La lezione che ci ha impartito il SARS-CoV-2 imporrebbe alle nostre società, e in particolare ai paesi più industrializzati, di imprimere un radicale cambiamento ai sistemi economici, un cambiamento ben più netto di quello ventilato con espressioni come Green New Deal e sviluppo sostenibile, oggi molto utilizzate, ma che nascondono l'intenzione di lasciare le cose grosso modo come stanno, a parte una vigorosa pennellata di verde. Un'idea del cambiamento da compiere la propone sul piano etico e filosofico, per esempio, Corinne Peluchon, docente di filosofia all'Università di Paris Est e autrice del Manifesto Animalista, il programma politico dei vegani, un libro pubblicato un paio di anni fa dall'editore Sonda. In un'intervista a Greg Dietz, pubblicata sul quotidiano Domani, la filosofa propone, come dice il titolo dell'articolo, di superare il vecchio illuminismo e rifondare un'etica ecologica per una nuova società post-Covid. Siamo tutti vulnerabili, dice Corinne Peluchon, e abbiamo un destino comune. Con la pandemia molte persone si sono rese conto che non possono controllare tutto e che la connessione con gli altri umani è la cosa più importante. Questo, si spera, ci porterà a cambiare stili di vita e modalità di produzione, perché il nostro modo di vivere non è sostenibile. Per Peluchon la prospettiva è un nuovo umanesimo non antropocentrico, e quindi comprensivo della grande diversità degli esseri viventi. La filosofa concentra l'attenzione anche sul tema della libertà, dicendo che la nuova prospettiva umanistica nel contesto della crisi ecologica e sanitaria non implica meno libertà, ma una libertà diversa, che si riconfigura, sostiene, alla luce della nostra responsabilità verso gli altri, compresi gli animali e le generazioni future. Vedremo se la nostra collettività saprà raccogliere questa sfida. Bring your tenable heart and ambitions are load and a center road right but emotions hard good and a center all right. Take a different road than love. Love it tears apart me. Love, love it tears apart me. When it burns so cold, when it turns we all sight, is it time of that fruit? Si parla sempre più spesso in tutta Italia dei lupi e se ne parla ben vedere fin troppo, se si considera che la popolazione complessiva non supera le 2.000-2.500 unità. Ma i lupi sono tornati a essere uno spauracchio, soprattutto per le fake news messe in circolazione, per fare da parafulmine. Si dice che i lupi sono pericolosi, che stanno prendendo possesso del territorio, che impediscono l'allevamento del bestiame, che disturbano e così via. E intanto continuano gli avvistamenti. E ogni volta scatta l'allarme, come se la sola vista di un lupo potesse far presagire chissà quali problemi e quali sventure. Da ultimo, un lupo è stato avvistato sui Colli Euganei, in provincia di Padova, con conseguente espansione della bolla dell'allarme al lupo. Massimo Vitturi, che nella LAV è il responsabile del comparto selvatici, ha commentato la notizia dicendo che il lupo è tornato ed è tornato per restare, sui Colli Euganei come nel resto d'Italia. La dispersione nel territorio, sostiene Vitturi, è scritta nel codice genetico del lupo. I giovani escono dal branco per andare a creare altri branchi, esplorano il territorio, riappropriandosi dei luoghi dove vivevano fino al secolo scorso, nonostante ora siano molto più antropizzati. Il lupo dunque è tornato, ma i tempi per lui sono sempre difficili. I bracconieri, in particolare, sono costantemente in agguato. Intanto, dalla Spagna arrivano notizie confortanti, visto che il governo spagnolo ha finalmente annunciato che presto imporrà il divieto assoluto di caccia al lupo. Un annuncio accolto con grande soddisfazione da animalisti e ambientalisti, ma che ha già suscitato le ire delle comunità rurali del nord-ovest del paese, dove l'animale attualmente vive. Il lupo in Spagna si è quasi estinto a causa della caccia fra il 1950 e il 1970. Finora è stato possibile sparare ai lupi a nord del fiume Duero, dove vive la maggior parte dei 2500 animali sopravvissuti alla mattanza dei decenni passati. Finalmente anche la Spagna ha deciso di cambiare pagina. We're heading for Venus, and still we stand tall, 'cause maybe they've seen us, and they welcome us all with so many light years to go. Nei giorni scorsi si è chiusa finalmente la stagione della caccia, segnata come ogni anno da una lunghissima scia di sangue. Abbiamo chiesto a Francesco Cortonesi, autore e attivista, di commentare la fine della triste stagione delle doppiette. Anche quest'anno la stagione venatoria si è conclusa con una strage. Milioni di animali sono stati abbattuti nel corso degli ultimi mesi e ben 61 persone sono rimaste uccise o ferite. Con 14 morti e 47 feriti, anche gli esseri umani hanno quindi pagato un alto tributo a questa crudele attività. È importante sottolineare che 4 dei 14 morti erano persone estranee alla caccia, così come 14 dei 47 feriti. Questo significa che 18 persone che camminavano tranquillamente per i fatti loro sono state raggiunte dai colpi di fucile dei cacciatori. Inutile dire che qualsiasi altra attività facesse registrare un così alto numero di vittime sarebbe stata chiusa da un pezzo. Inoltre, i reati, gli illeciti, le crudeltà individuate dalle autorità competenti non si contano e se i dati sono leggermente in calo, questo dipende esclusivamente dalle restrizioni introdotte dalle norme anti-Covid. Ciò non ha comunque impedito ai cacciatori di frodo, spesso ex cacciatori con licenza, e a quelli autorizzati di muoversi oltre i limiti imposti ai comuni mortali, dimostrando ancora una volta quanto la politica e le amministrazioni siano succubi delle lobby della caccia e delle armi. Per fortuna, le persone contrarie alla caccia stanno crescendo di giorno in giorno e negli ultimi mesi si è parlato spesso di tempi maturi per lanciare un nuovo referendum contro la caccia. In rete sono già numerosi gli attivisti che si stanno organizzando e non è escluso che a breve ci siano importanti novità. Torniamo a parlare di libri e lo facciamo con la grazia di Anna Granata, che ha letto per noi Trilli, riflessioni di una gatta in degenza. Sentiamo. See that girl, watch that scene, digging the dancing queen. Diego Manca è l'autore del romanzo Trilli, riflessioni di una gatta in degenza, di Ultra Editore, di cui oggi suggeriamo la lettura. Egli è veterinario di lunga esperienza e già più volte autore di libri a tema animale. Questa storia potrebbe essere definita una fiaba in cui i protagonisti sono cani e gatti che parlano la nostra lingua come in un luogo fantastico. Alcuni di loro hanno un nome scelto dalla mamma naturale alla nascita. Gli umani invece vengono definiti bipedi. Sono anonimi e differenziati solo per alcune caratteristiche fisiche o del loro comportamento o professione. Durante la narrazione vengono affrontati temi come la caccia, lo sfruttamento degli animali nei circhi, l'abbandono di quelli ritenuti scomodi dalle famiglie adottanti, per ciascuno dei quali potrebbe essere utile un approfondimento. L'autore però sceglie di rimanere lieve su questi argomenti, esprimendo tra le righe una sua talvolta velata contrarietà, ma evitando un aperto scontro con queste barbare usanze umane, facendo semplicemente parlare i protagonisti delle loro dolorose esperienze. Trilli è la gattina protagonista della storia, che si trova ricoverata nella stanza degenza di un ambulatorio veterinario in seguito ad un grave incidente. Lei preferisce essere chiamata Nuvola Splendente, poiché noi gatti, tutti gatti, abbiamo un nome che viene scelto dalla nostra mamma nello stesso istante che veniamo al mondo. Il mio vero nome è Nuvola Splendente, perché mentre venivo alla luce, una nuvola, l'unica nel cielo terso di quella notte, era illuminata dalla luna piena. Trilli non ricorda se aveva una famiglia che si prendeva cura di lei prima di quell'evento e poiché nessuno va a cercarla, resta ospite di quel luogo, nella gabbia più in alto, così da poter osservare da una posizione privilegiata ciò che accade, per un tempo sufficiente a conoscere cani e gatti, più o meno sventurati, anch'essi ricoverati nella stessa stanza. Conosce Soffio di Vento, un gatto malato di reni, figlio peloso di due umani anziani che hanno dovuto trasferirsi dalla campagna in un appartamento in città privandolo della sua libertà. Poi la setter inglese Diana, che sta per dare alla luce i suoi cuccioli, ma deve subire un parto cesareo perché ci sono complicazioni. E questo fa dire a Trilli: mi spiace tanto per Diana. Gli umani non lo sanno, ma anche noi animali abbiamo dei sentimenti. E come? Viviamo la gioia, la soddisfazione, la rabbia nel momento stesso che si manifestano, cioè nel presente, senza poi pensare a come evolveranno nel tempo. Noi viviamo con le zampe per terra, attimo per attimo, con consapevolezza. Questa capacità ci rende felici perché abbiamo l'invidiabile opportunità di goderci l'attimo, pensando al nostro benessere e a ciò che ci serve per vivere una vita piena e appagante. Noi non abbiamo rimorsi se abbiamo mangiato o dormito troppo. Accogliamo ogni attimo piacevole al momento che si presenta e lo viviamo completamente. La gattina soffre per i traumi dell'incidente e per l'operazione che subisce, ma benché circondata dal caloroso affetto dei veterinari che si prendono cura di lei, il suo più grande tormento è di restare lì, mentre tutti gli altri compagni di sventura tornano dopo la degenza nelle loro case con gli umani che li amano. Conosce il cane Rollo e il dramma del veleno distribuito nei parchi da umani criminali, la gatta randagia luna piena che è stata catturata per essere sterilizzata e che al contrario di Trilli chiede di essere lasciata libera e selvatica. il cane Chloe, guida per i ciechi, e il cane Balto delle unità cinofile. E qui può sorgere spontanea una personale riflessione sullo sfruttamento dei cani nelle attività lavorative, ma è una meditazione lasciata al lettore. Ogni incontro di Trilli, e in questo luogo ne fa tanti, può dare luogo ad un'approfondita analisi sulla condizione animale nel suo rapporto con l'uomo. Questo racconto apre la porta di una prima stanza in cui entrare e riflettere tra fantasia e realtà. Il resto è lasciato a chi decide di prendere a cuore la questione animale. Trilli, riflessioni di una gatta in degenza, di Diego Manca, edito da Ultra Editore. When they kick at your front door, how are you gonna come with your hands on your head or on the trigger of your gun? When the law break in, how you gonna go shot down on the pavement or waiting on death row? You can crush us, you can bruise us, but you have to answer too. Al magico mondo dei felini è dedicata la ricetta della settimana del nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni, autore del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, pubblicato da Newton Compton. Vi ricordiamo che tutte le ricette di Gabriele sono consultabili e ascoltabili sul sito restiamoanimali.it. Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. Quando si parla di felini mi torna sempre in mente questo fatto singolare. Se chiedi a qualcuno, ma l'ha mai assaggiato il salame di felino? Quello, se non sa di cosa parli, ti guarda sbalordito e dice, ma che sei grullo, che è un salame di gatto. Poi gli spieghi che no, il felino in questione è con la F maiuscola, perché è il nome di un paese in provincia di Parma dove si produce questo famoso insaccato. Ah, allora va bene, dice lui. Ma come, se a morire è un povero maiale, ti va bene. Se invece è un gatto, tu non ridisci. Bah, che mondo strano. È come se qualcuno venisse da te e ti dicesse, oh, mi dispiace, l'è morto tuo fratello. E tu rispondi, ma chi, quello biondo? No, quell'altro, quello rosso. Ah, vabbè, allora fate come vi pare. Io il salame lo fo con le lenticchie. Gli ingredienti per la salamella vegetale sono 200 g di lenticchie rosse, 2 spicchi d'aglio, 40 g di fecola di patate, 40 g di amido di mais, 50 g di pan grattato, 100 g di barbabietola rossa cotta, 10 g di cacao amaro in polvere, 50 ml di vino bianco secco, 30 g di riso arborio lessato, un cucchiaino generoso di pepe nero in grani, un cucchiaio di concentrato di pomodoro, un cucchiaino di paprika affumicata, olio extravergine di oliva e sale grosso. Sciacquate le lenticchie rosse e lasciatele in ammollo in abbondante acqua per un'ora. Nel frattempo, in un mortaio, schiacciate il sale grosso, 2/3 del pepe in grani e l'aglio. Una volta ben pestati, lasciateli macerare nel vino bianco. Trascorso il tempo necessario, scolate le lenticchie e mettetele in un mixer da crude, assieme al pesto di aglio, pepe, sale e vino. Aggiungete le barbe rosse e la paprika affumicata. Frullate il tutto fino ad ottenere un impasto liscio e cremoso. Versate l'impasto in una bulla e unite il cacao amaro, la fecola di patate, l'amido di mais e il pan grattato. Mescolate bene il tutto con una spatola, infine aggiungete il riso cotto e il concentrato di pomodoro e lasciate riposare e insaporire per 15 minuti. Versate il composto in un foglio di alluminio spennellato d'olio e arrotolate dando una forma cilindrica stretta e lunga. Chiudete piegando le estremità, facendo attenzione poiché l'impasto da crudo risulterà abbastanza morbido. Sistemate la salamella in una teglia e fate cuocere in forno a 160 gradi per 40 minuti. Quindi togliete dal forno e lasciate raffreddare. Fate riposare almeno mezza giornata prima di consumarlo. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, your big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. I say, yeah. We will rock you. Viviamo nell'era dell'antropocene, segnata dall'estrazione smodata e sistematica di risorse dalla natura, da un inquinamento sempre più soffocante, da una crisi ambientale ormai cronica. È anche l'era della distruzione progressiva della biodiversità. Perciò è una buona e possiamo dire anche sorprendente notizia quella che arriva dagli Stati Uniti. Nel Golfo del Messico è stata individuata una nuova specie di balena. L'annuncio viene da un gruppo di scienziati che era sulle sue tracce fin dall'anno 2000. Il cetaceo abita una limitata porzione delle acque nordorientali del Golfo del Messico, a largo della costa statunitense. Inizialmente gli studiosi pensavano di trovarsi di fronte a una sottospecie della cosiddetta balena di Bride. Studi più approfonditi hanno però permesso di accertare la specificità degli esemplari esaminati. La nuova specie di mammifero è stata denominata balena di Rice, dal nome del biologo specialista in cetacei Dale Rice, deceduto nel 2017. Il fatto paradossale è che la nuova specie di balena è già considerata a rischio estinzione dall'autorità federale che si occupa della vita nei mari. La buona notizia, quindi, contiene una dose di veleno nella coda. Si stima che la popolazione complessiva della nuova specie nelle acque statunitensi non superi le 100 unità. Lunga vita alla balena di Rice. Just wait till I get through, because I'm bad, I'm bad, come on. You know I'm bad, I'm bad, you know it. You know I'm bad, I'm bad, you know it, you know. And the whole world has to answer right now, just to tell you once again. Per questa settimana è tutto, vi saluta l'intera redazione di Restiamo Animali, composta da Francesca De Matteis, Roberta Marino, Camilla Lattanzi, Gabriele Palloni, Giuseppe Coco, Gianluca Masala, Anna Granata, Zenone Sovilla, Gianni Ferrarotti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. For today, Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.